scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Ancora una voce in scena, uno degli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena è quella di un chitarrista e cantautore italiano da poco uscito con un nuovo album. A Bologna nel 1968, comincia a farsi conoscere come chitarrista nel 1990, quando inizia a collaborare con il Litfiba. Dal 1994 fa parte del gruppo che accompagna Luciano Ligabue, dove tuttora suona. Intanto però esordisce come solista nel 98 con il CD Via Zamboni 59 assieme alla sua band, i KKF. Nel 2003 viene pubblicato l'album Nella fretta dimentico, nel 2009 Caos cosmico, nel 2011 è recitato nel film Bar Sport diretto da Massimo Martelli, nel 2015 esce il suo nuovo album da cantautore, Nero. Lui è Federico Poggipollini. Il titolo è stato sofferto, nel senso che la rosa dei brani dell'album era tanta, e quindi quando ho concentrato le canzoni, abbiamo capito le canzoni dell'interno dell'album, ho capito anche il titolo. Allora, prima cosa, c'è un brano dell'album che si chiama Nero. Seconda cosa, è la mia direzione così, questa sterzata che ho fatto verso il rock vero, in tutto messa a fuoco in tutto l'album, e quindi essendo un non colore proprio una direzione decisa. In più c'è moltissima musica black all'interno, e l'altra cosa, il nero secondo me, anche secondo me ma secondo tanti, è l'immagine del rock. Quindi io immagino, mi piace immaginare il giubbotto di pelle di Marlon Brando che si chiama Perfetto, ed è un perfetto black, nero. Quindi diciamo che quella piccola parola mi ha raccontato tutto l'album. In più volevo un nome molto corto, quindi vedi, era tutto perfetto, ci ho pensato tantissimo. Hai citato Marlon Brando, quindi entriamo subito in un'atmosfera un po' anni 50, tanto vintage, anche perché ho scoperto che sei un collezionista di strumenti, quindi ci sta perfettamente. Sì, è molto vintage come idea musicale, perché comunque cita i classici del rock, i classici che ho ascoltato io, negli anni 60, gli anni 70, soprattutto quell'imprinting lì che era quello più rock, sia nell'attitudine, nel modo che è stato ripreso, e anche però dalle sonorità, e anche se vuoi a dei richiami che sono Michael Urbano, che ha prodotto l'album, mi ha proprio ha molto rispetto del classico, no? E quindi il classico per lui è anche saper riprendere, saper reinterpretare certe cose con quel tipo di stile, e questo è un disco che ha tutte queste cose. Tanti artisti ultimamente mi dicono: magari un disco meno pulito, però torniamo a suonare, c'è questa voglia di suonarli davvero? Io ce l'avevo da un po', infatti questo disco è in attesa da un po' di tempo, quindi diciamo che ho avuto degli step, ho avuto modo anche di ragionarlo molto, e questa necessità era un bel po' che ne avevo bisogno. Devo dirti che sono stato stimolato da delle band inglesi e americane, che tipo Black Keys, White Stripes, che mi hanno avvicinato a quel tipo di imprinting lì, che comunque faceva parte un po' di quello che ero io anche. E quindi ho detto: perché non riuscirlo a fare anche in Italia una cosa simile, con dei pezzi che si prestano bene o male. E la prima fase dell'album era una fase dove io cantavo in finto inglese, quindi le melodie. La lavorazione dei testi è stata un lavorone che però sono felicissimo, perché credo di aver trovato perfettamente su ogni brano l'atmosfera giusta nel raccontare le cose, e soprattutto non ho mai rovinato, dico rovinato, la melodia, cioè nel senso che per me era molto, essendo un musicista più che un cantautore, l'idea proprio di avere una melodia che fosse, come si può dire, armonica all'interno del suono, per me è molto importante, quindi il lavoro è stato maniacale. Che per i testi sei affidato anche alle persone, le persone che, con cui vivi normalmente, la compagna, gli amici, cioè non a musicisti? Sì, in realtà sì, più che altro con la mia compagna, nel senso che i testi li ho scritti anche da solo, però ho interagito molto con lei perché, te lo devo dire, oltre a essere una persona che mi piace come scrive, le cose che legge, però anche per stare insieme, nel senso che io sono stato tantissimo tempo in giro e il fatto di trovare con lei questa cosa insieme, di formare una complicità legata a tutt'altro rispetto alla famiglia, mi ha dato piacere, perché comunque stavamo lavorando insieme a qualcosa. Citi Albert King, B.B. King, hai anche la responsabilità magari di farli conoscere, perché ci saranno tanti che ascoltano te e... Andranno a googlarli, eh? Ma io adesso non voglio essere presuntuoso, perché non sono proprio fatto così, però questo modesto disco credo di aver di poter dare delle informazioni legate un po' alla musica che ho in maniera assolutamente viscerale e con una passione incredibile ho ascoltato e continuo a farlo. Quindi c'è all'interno, appunto, cito questi tre mostri del blues che sono B.B. King, Freddie King, Albert King. Ci sono i Cure, i Pink Floyd, ci sono i Led Zeppelin, ci sono tante cose proprio che richiamano, non che siano, però c'è proprio quel tipo di suono lì in certi momenti. Sembrava un giorno come un altro, sera d'aprile, mio padre mi chiamò per dirmi, con la voce sottile, il vento salutò il suo viaggio, si fece forte fra gli alberi, voleva solo che io capissi. I brani contenuti nel disco erano interpretati da altri cantanti, cioè tu volevi solo suonare? Io avevo fatto questo disco dicendo: ok, faccio questo disco, ma è il mio capitolo da cantautore, era finito con i tre album passati. Questa è un'altra cosa, mi piacerebbe lavorarlo e produrlo in un certo modo insieme a Michael, però non, perché devo fare il cantante, che comunque non mi sento del tutto cantante? Io ho fatto questi esperimenti con cantanti anche conosciuti, però a Michael non piacevano. cioè i miei provini rispetto ai loro. Io l'ho fatto, guarda, veramente non avevo voglia, dicevo, ma perché devo cantarli, perché è un altro sforzo, comunque arrivo da, amo la chitarra, amo gli strumenti, e comunque è già impegnativa, e anche le parti di chitarra sono anche comunque belle impegnative, nel senso che comunque è difficile cantare, insomma. E poi lui mi ha detto, no, questo disco è talmente tuo che quando le canti te io sento una differenza, e ho fatto un grosso lavoro. Io mi sono è la prima volta che canto tutti i brani conoscendo perfettamente tutti i testi, quindi ho avuto anche modo di digerirli, impararli, perché comunque quando li scrivi non sempre te li ricordi, no? Lì li ho cantati proprio pensando proprio a raccontare una cosa. Io ero a Reggio Emilia la notte in cui Luciano Ligabue ha festeggiato la sua carriera e ha chiamato i suoi compagni d'avventura di tutti questi anni che poi si esibiranno con lui a Campovolo il 19 settembre. Il contenuto di quella serata si fa quasi da solo, nel senso che abbiamo deciso di suonare integralmente, per l'appunto, il primo album con la band con cui l'ho realizzato. Suoneremo integralmente Buon Compleanno Elvis con la band con cui ho realizzato e il produttore che si è occupato, per l'appunto, del suono assieme a me. E poi chiuderemo il concerto con il materiale dei 20 anni successivi assieme al gruppo attuale. È per questo che Emanuele faceva riferimento al fatto che effettivamente probabilmente sarà il concerto più lungo che ho mai fatto. Sarà una serata ovviamente unica per il fatto che io non ho mai suonato integralmente, a parte il primo anno dovevo suonare integralmente il primo album perché non avevo repertorio. Ma Buon Compleanno Elvis io non l'ho mai suonato integralmente, e proprio per fare sì che si possano ascoltare anche quei pezzi che inevitabilmente restano nascosti negli album, che non hanno visibilità perché non diventano singoli e che però insomma hanno un loro perché se finiscono in un album. Applausi per tutti, però quando sei arrivato tu un applauso enorme. Tu l'hai sentita questa, cioè tu come la prendi questa cosa? Sono abituato abbastanza bene al pubblico di Luciano, il pubblico e anche, se vuoi, i seguaci, che sono anche delle volte anche giornalisti, sì, mi hanno sempre viziato. Beh, io credo di aver fatto con Luciano i periodi continuo a fare dal 94, che comunque è stato un momento importantissimo per Luciano con Buon Compleanno Elvis, da lì adesso non sono mai sceso da questo carro, e quindi è una cosa importante. Ho sempre, come sempre, cercato di dare il massimo. È una musica che comunque non posso dire che è mia, perché non è mia, però ho sempre messo tutto il cuore possibile dietro questa musica, e abbiamo, credo nel senso che lo so, però non voglio che una così empatia, ci capiamo molto sulle cose, sulle scelte. Lui conosce dove posso arrivare e quindi mi usa quando sente il bisogno di qualcosa, e comunque sì, è molto importante. Devo dirti che arriviamo anche da una tournée magnifica in tutto il mondo, ma anche nei Palasport, quindi siamo proprio in feeling. Io a Campovolo suonerò con le due band, quindi con la band di oggi, quella che abbiamo quella di adesso, dove c'è anche Michael, e anche quella della banda, che comunque è stata importantissima, che abbiamo fatto 10 anni insieme, tra Buon Compleanno Elvis fino ai dischi incredibili, ecco. Quindi rifare quel disco lì dall'inizio alla fine deve essere un'emozione. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.